Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Non sono passati molti anni da quando chiamavamo la bolletta dell'energia elettrica bolletta della luce. Oggi però le cose sono cambiate e l'illuminazione è responsabile solo di una piccola frazione dei consumi elettrici. Insomma, ricordarsi di spegnere la luce non risolve tutti i problemi, ma diversi studi hanno rivelato però anche un'altra cosa, che cioè il settore dell'illuminazione è quello su cui si riescono a ottenere i maggiori risparmi di energia a parità di costo. E quindi intervenire sull'illuminazione conviene ed è anzi una delle prime cose da fare. Se poi parliamo dei comuni su cui grava il compito dell'illuminazione stradale, troviamo che per questi proprio l'illuminazione è invece la voce più rilevante della bolletta, che insomma i comuni fanno eccezione. Ma quello di cui vogliamo parlarvi stasera è della possibilità di andare oltre un impianto di illuminazione efficiente. E allora, per cominciare, sentite che cosa mi ha raccontato Gilberto Trevisan, sindaco di Rossano Veneto, che è un paesino di 8.000 abitanti che da poco ha appunto riqualificato l'impianto di illuminazione pubblica. Ascoltate. Praticamente da un computer all'interno della pubblica amministrazione potevamo gestire, decidere sulla pubblica illuminazione. Potevamo benissimo pensare, ipotesi, in momenti tipo la notte, no, che il lampione poteva consumare meno e si poteva abbassare l'intensità della lampadina, arrivando a dei risparmi notevoli, ma non solo, tramite un meccanismo, una sira, una slim, che veniva installata su ogni testa del lampione. Una specie di scatoletta, comunque, no? Un apparato. Sì, appunto, con questa scatoletta il lampione produceva dati, no, che servivano appunto per sentirsi ed essere gestito. Tramite sempre la scatoletta si potevano anche pensare di agganciare dei servizi vari, tipo la videosorveglianza, tipo pannelli informatori, tipo antenne per il servizio wifi in paese. E da questi dati mi sono un attimo attivato e in effetti mi hanno fatto capire che l'investimento non era una spesa, ma bensì con quello che si risparmiava si riusciva ad avere una gestione in paese a costo, alla fine a costo zero. Dobbiamo proprio dirlo, perché in effetti con il risparmio dell'energia elettrica io ho finanziato l'intero impianto nel comune di Rossano Veneto. Rossano è un paese oggi gestito da 38 centraline, ecco, che stanno gestendo una cosa come 1600 punti luce. Ecco, e mi sto prendendo il lusso di dire, va, vediamo cos'è successo stanotte. Vediamo se tutte funzionano in maniera regolare o se qualche lampadina sta facendo i capricci. Qui qualcuno mi sta dicendo, guarda che qui c'è una lampada che molto probabilmente tra poco in esaurimento. Sta funzionando, ma sappi che potrebbe esaurirsi. Economicamente, no? Quanto, più o meno, quanto è il risparmio? Beh, diciamo che noi arriviamo oltre un 40% di risparmio gestendo la pubblica illuminazione. Quindi, diciamo, espresso in euro, nell'arco di un intero anno io arrivo a risparmiare oltre i 55.000 euro, che sono quelli che mi hanno permesso di finanziare un leasing per garantirmi questo tipo di gestione. Oltre al controllo dell'illuminazione, rispetto a tutte quelle altre, diciamo, possibilità che c'erano, che questa centralina mette a disposizione, voi che cosa avete deciso, guardi, di implementare? Io nei punti cruciali della mia città ho già installato 4 telecamere sfruttando la rete della pubblica illuminazione. E sta per arrivare il wifi. Ecco, poi la stessa cosa funziona con il discorso del wifi, stiamo progettando di avere anche dei pannelli informatori, sempre con lo stesso sistema, senza rompere niente, perché non abbiamo rotto nessun tipo di strada per fare questo tipo di impianti. Ecco, possiamo installare dei pannelli informatori che possono essere utili per comunicare con la popolazione. Insomma, lampioni che grazie all'aggiunta di un piccolo dispositivo elettronico, nel caso specifico parliamo di una tecnologia italiana prodotta dalla Umpi, che qualche tempo fa era anche balzata agli onori della cronaca per aver illuminato, pensate un po', la Mecca. Ebbene, i lampioni, grazie a questo piccolo pezzo di intelligenza aggiuntiva, diventano proprio i nodi nevralgici a partire dai quali erogare dei servizi ai cittadini. A nessuno sfugge che questo approccio risponde a un principio di economia. Il lampione c'è già ed è già un supporto presente sul territorio. Ma wifi, tabelloni informativi, telecamere per la sicurezza potrebbero in realtà essere solo l'inizio. Ascoltate che cosa ha raccontato Mauro Annunziato, direttore di Smart Cities dell'Enea, a Ubaldo Cianciulli, che settimana scorsa era a Firenze, precisamente al Consiglio Mondiale dell'UCLG, United Cities and Local Governments. Sentiamo. Se io ho dei servizi urbani che si adattano alla mia interazione, significa che io in qualche modo sto orientando questi servizi che quindi si adattano a me. Sto parlando ad esempio del fatto che la luce, l'illuminazione può regolarsi in funzione delle persone che ci passano in una strada. Sto parlando della mobility on demand, cioè avere il mezzo, avere il trasporto quando mi serve, nella dimensione che mi serve, non aspettare mezz'ora per avere un autobus vuoto e quindi poi io spendo per trasportare il mezzo di trasporto, non il passeggero. E poi un aspetto molto interessante di coesione sociale, cioè essere connessi alla vita delle città, poter parlare con la pubblica amministrazione, utilizzare il cittadino come sensore della città per trovare buche, per trovare guasti, per segnalare situazioni, però occorre creare delle infrastrutture, quindi fare in modo che il cittadino diventi un attore importante. Aspetta, ma questa illuminazione domotica stradale, che poi alla fine credo di questo si tratta, esiste già in Italia? C'è già qualche città che l'ha adottata? Dunque, esistono esempi di illuminazione, la tecnologia più vicina è la tecnologia telegestione punto punto, che è una tecnologia che è stata citata qua, mentre invece quella adattiva è in via sperimentale. Cosa significa? Per esempio agganciare dei sistemi di monitoraggio del traffico, che potrebbe essere telecamere oppure spiremagnetico oppure dati dal satellite, al sistema di illuminazione. Questo ancora è fatto solo in via sperimentale, ma siamo vicini a delle realizzazioni effettive. Quindi esistono telecamere, esistono sistemi di illuminazione telegestiti punto punto, ma non esiste la connessione e si sta lavorando a questo. Anche qui a Firenze si sta lavorando su questa idea. Beh, insomma, il lampione fu il simbolo della rivoluzione elettrica e potrebbe, chissà, diventare anche il simbolo della rivoluzione intelligente. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.